America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero. The paper reported Trump had told May by telephone in recent weeks that he did not want to come if there were likely to be large-scale protests. Doveva essere l'incoronazione, l'apoteosi. Invece avete sentito dal newscast che Donald Trump ha deciso di annullare la visita di Stato in Gran Bretagna. Doveva essere ospite della regina Elisabetta, che gli avrebbe offerto una cena da mille una notte a Buckingham Palace. Poi gli scivoloni multipli, quello del presidente americano che si è permesso di oltraggiare il sindaco di Londra, Sadiq Khan, amatissimo dalla popolazione, per come aveva gestito l'attacco terroristico a Neighborhood Market. Ecco, insomma, non si era mai sentito che un capo di Stato straniero, invece di esprimere solidarietà al rappresentante di una città in lutto, lo attaccasse. Poi l'audizione di Comey, il Russiagate per Trump, infine il disastro elettorale di Theresa May, che è improvvisamente apparsa debole, poco credibile sul piano politico, insomma un cocktail esplosivo, un invito a dimostrazioni oceaniche di protesta contro due leader politici che, se fino a due mesi fa portavano il vessillo discutibile della rottura, oggi sembrano entrambi piuttosto ammaccati, anche perché dopo i risultati elettorali in Francia, quelli di ieri con il trionfo di Macron e le difficoltà del 5 Stelle alle elezioni locali italiane, l'atmosfera politica per il populismo sembra improvvisamente volgere al peggio. E dunque il Donald ha detto a Teresa, nel corso di una telefonata difficile, che forse è meglio rimandare questa visita, almeno fino a quando, ha detto, i cittadini britannici non lo vorranno. Ha ammesso di temere proteste, e credo che ci vorrà un pochino di tempo perché ci sia un moto popolare in Gran Bretagna a favore di Donald Trump. La prima anticipazione, tra l'altro, di questo è venuta dal Guardian, che ha citato un consulente di Downing Street che aveva assistito alla telefonata fra i due leader. E devo dire, c'è da immaginarsi la reazione di Trump, già piuttosto innervosito dalle fughe di informazioni da fonti vicine alla sua amministrazione sui media americani. Ma questa settimana in America continuerà a dominare l'indagine sul Russiagate. Sentiamo. James Comey confirmed a lot of what I said. And some of the things that he said just weren't true. Ecco, qui è Donald Trump che in una conferenza stampa col presidente della Romania è passato al contrattacco nei confronti di Comey. Dice: molte delle cose che ha detto non sono vere, in gran parte ha confermato quello che avevo detto io. Nessuna collusione, nessuna ostruzione alla giustizia. Dunque Trump, vi dicevo, cerca di contrattaccare, ha definito Comey un codardo, questo ieri su un tweet, per la sua decisione di far trapelare al pubblico alcune sue conversazioni con il presidente, cosa che lo stesso Comey aveva del resto ammesso. Contrattacchi che secondo me lasceranno il tempo che trovano, perché per la Casa Bianca la settimana si preannuncia, diciamo, rovente tra i democratici. Per esempio Chuck Schumer, il numero uno del Senato nel Partito Democratico, chiede che il presidente vada a sua volta a testimoniare sotto giuramento davanti al Congresso. Domani, sotto il torchio della Commissione Intelligence del Senato, ci sarà Jeff Sessions, segretario alla giustizia. Dovrà riferire che tipo di rapporti aveva avuto con certi funzionari russi. Insomma, come dire, la situazione si complica. E in tutto questo, in questa situazione, Trump che cosa ha pensato di fare? To announce a new Cuba policy that could tighten rules on trade and travel, President Donald Trump is expected to visit Miami as early as next Friday. Ecco, avete sentito? Annuncerà una marcia indietro nei rapporti con Cuba. E in questo stato di assedio il presidente americano torna ad appoggiarsi a Bannon, appunto, ve l'ho detto, l'anima nera dell'amministrazione, punta solo sulla sua base politica, quella di estrema destra, e visto che non potrà fare molto sui programmi, introduce diversivi. Venerdì da Miami dovrebbe appunto annunciare un cambiamento delle politiche su Cuba dopo la storica apertura di Barack Obama, che aveva riallacciato i rapporti diplomatici con L'Avana e Castro dopo quasi 50 anni di guerra fredda e di scontri. Trump annuncerà restrizioni alla possibilità di viaggiare a L'Avana, restrizioni su possibilità di fare affari con Cuba e così via, così via. La scelta di Miami, tra l'altro, per pronunciare il discorso non è casuale, è lì che si trova la comunità più grande di esuli cubani e dunque Trump punta su quello. C'è un problema però, perché molti di loro ormai sono giovani, nati in America, che non hanno particolari risentimenti contro il regime castrista. Dunque vedremo se poi anche questa decisione non sarà un boomerang, insomma un gran pasticcio. Questa settimana però Trump presenterà sarà l'agenda per gli investimenti infrastrutturali e chissà, questa nuvola del Russiagate forse non lo aiuterà neppure su quel fronte, perché chiediamoci come troverà un compromesso coi democratici necessario per quel progetto in questa atmosfera rovente. Per ora a Washington non si intravede un percorso per una possibile via di uscita e a Londra, beh, la strada appare alquanto accidentata. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, problemi a casa, problemi all'estero per Donald Trump, come dire, guai un po' dappertutto. Dunque di Lynyrd Skynyrd, Double Trouble. 11 times I've been bus, 11 times I've been to jail. Some of the times I've been there, nobody could go my bed. But it seems to me, Lord, that this old boy has don't fit. Well, I jump in a rose bush, my mouth smelling like those men. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye. And get going.